Penso Lucariello, se ascolti chissà mia, capa capa. Positiva capa roce, frate, ti ascolto molto chiaro qua, non ci stanno problemi, da parte mia sulla 131 direzione Cagliari, cambia, cambia. Via, Lucariello, qui direzione Olbia, capa capa. Capa capa. C'è un po' di propaganda sul 45, capisci, ma capa. Ma io non ci posso andare con questo, no, non è ATI quel canale, non c'è manco l'11 alfa, molta gente, molta volte se ne vanno sull'11 alfa, io non li posso ascoltare. Beh, sto rispettando se sto chiacchiere, ma ci passo contatto, ciao, mi sta. La cacciara e la cacciara. Gaba. Gaba gaba. Come la talisca mette la pace in tutti i nomi, no? Uia. Barba doccia fatta. Gabo. Tirando. 10 minuti 10. Io me la devo ancora fare la barba. Gaba gaba. La doccia a me la mollente. Sta rifattando, ah, ecco. Positivo, non ci stanno problemi. Ma così va bene la radio Natalina. Ma funge, funge? Almeno quella spinge, io non ti metto chissà. Faccio un microfono preamplificato e preamplifica un tubo. No, questa già preamplifica, guarda, così. Ma così ha preamplificato, ha migliorato la radio, più alta. Sai che c'è il casino qua. Gada gada. E la gacciara, e la gacciara. Dan dan dan dan dan dan. Agli altri. Di Bada non l'avevo dato, no? Cazzo. quel Lincoln, quello c'aveva un casino di canali, e che non avevo l'alimentazione e il microfono, chissà che cazzo di fine, ma no, il microfono già mi si era rotto, la verità, ma l'alimentazione non ce l'avevo. Vabbè, era un microfono con l'up down. Sì, c'avevo. Up down? Sì. Ma usare i canali, vabbè, che su Lincoln che ho dato a quella persona lì. Un bel canali, va. Lo so, non so che fa da 25, no, 24, 30. Beh, un bel canali che era modificato. C'aveva un bel di bande. Gaba gaba. Senti questo, PMR, non stanno più entrando nessuno. So, prova a fare una chiamata, Natali, vediamo un po' se arrivi, prova. Non ne ho. No, non ne ha. No, c'ho il ricevitore qua. E prova a metterlo, vediamo un po' se mi senti, da 446.081. E già è girendo, già, come ti pone la portante, già, si ferma. Fondo scala, arrivi. Prova radio. Ehi, fondo scala. Vediamo se ho sentito. Visto. Ma fa rientro nel baracchino, un bel, cazzo, non so se è importante. In quello lì. Aspetta, vediamo un po' se mi ascolti con un altro, aspetta. Sì, cava. E arrivi lo stesso. Più basso, ma già arrivi. Prova. Prova radio. Vabbè, cosa vuoi fare? 500 mili fatti. Che è, beh. Milano, uno non è chiuso, fino che arrivi pure in Sant'Ella, siamo vicini. E te credo, su quanto entra però. C'ho la X50 qua da piazzare, mi manca lo spezzone di cavo per arrivare fin qui. Lo spezzone di cavo per arrivare fin qui, cioè? Canale 16 Marino. Non ho capito. Ho detto che mi manca. Ecco, aveva richiuso. Mi manca lo spezzone di cavo dall'antenna a qui. Perché io lo volevo mettere fuori dalla finestra, quella X50. Però non è bongo ancora. Mi manca Rugavu. Quanti metri è? E sarà 5-6 metri, penso. Ah, io ne ho uno spezzone che sono 3 metri, mi va, 2,50 metri. No, non andrà bene. E vabbè, tanto ancora non la voglio piazzare, fa cosa, non si sa mai. È meglio, sai che mi rompano le scarpe. Già c'ho la licenza d'ascolto, Me l'ho messa qui, me l'ho attaccata, adesso che ce l'avevo su in campagna. Capito. Aggiungavite. Vabbè, Natalia, dove va? Troppo. Anche il patentino per il VHF Marino, telefonista di bordo, capito? C'hai? Cavagava, cavagava. No, dopo è finito, ma ce l'ho. Positivo, positivo, non ci sono problemi, dai, gamba. Tutta una gaggiara qua, tutta una gaggiara. L'unica cosa che non posso sopportare è che mi hanno bocciato quando sono andato a dare l'esame. Se no avrei avuto anche la patente. Vabbè, ritenta, sarei un po' più fortunato. Come ti dici a Ghiddu? Ha già ritentato, niente. Non c'è nulla da fare. E mica ero preparato io. Vabbè. Sai come la patente, studi una cosa o studi un'altra. Ma ti chiedo quello che non hai studiato e ti inchiappettano. Ma il fatto che io la cosa la sapevo, è quello. Vabbè, non sta lì. Cosa vuoi ti dica? Ci proverò io un domani, sicuro ci proverò io. Magari aspetta la danna, a me non me ne daranno mai, lo so, e non ci vado più infatti. Sono andato delle voci. Ci provo, no? Molto costano i versamenti. acceso anche Claudio quando ero lì io, figurati. Addirittura io non lo dicevo a nessuno, eppure a Sassari sapevano che io dovevo scendere, capito? Quando mi erano dentro, mani telefonato da Sassari, a me da Sirusabiani. Allora, voilà. Considerate anche i costi di un apparecchio radio, ah no, vabbè, gli apparecchi però, quanto costa diventare radioamatore? Per la patente lì? Bisogna cercare lì, al MISE, ti diranno tutto diversamente, che c'è da fare, la domanda che c'è da fare prima di dare l'esame. Adesso lo daranno a ottobre, penso, perché questo estivo non lo danno per il coronavirus. Solo che adesso ti chiedono cose di informatica pure, telefonia, un sacco di cose ti chiedono, con la scusa che non c'è il CV doppio, hanno aggiunto delle robe, siccome stanno usando le radio digitali ti chiederanno anche tutte quelle cose lì. Vabbè, ma quanto sto leggendo qua, così ho dato un'occhiata, non devi essere manco uno che ha avuto pene pesanti, ecco. Io non ne avevo, ma non ho avuto mai niente. Se c'ho il porto d'armi, penso di essere una persona come si deve, no? Poi, aspirante, radioamatore, deve inviare l'ispettorato del Ministero delle Telecomunicazioni, che è cancellato, lo sviluppo economico, competente per il territorio locale, sulla località, dove richiedente domiciliato, ma fa come un cazzo, personalmente o per raccomandata R, vabbè, comunque 25 euro, ci vogliono 25 euro più una cosa, fotocopia del documento e una fototessera. Che da bollo ci vorranno, io mi ammetto che era sulle 60 euro quando l'ho dato io, adesso bisogna vedere come te. E te credo. Marche da bollo me lo ricordo perché ce ne vuole una sulla domanda e una gliela devi dare così che l'attaccano alla patente, capito? Quindi sono qui. E quando si è promosso? Si è promosso, se no si la denini. E vabbè, diciamo anche con le conoscenze fai tutto. Non ti credere, no? Se c'è sempre quell'ingegnere De Bilio lì, anche se in pensione, si mette a rompere le balle lì. Capito? Chissà che mi ha segnalato a me mi hanno segnalato, non me ne daranno mai. Quando sei supportante tu sento una stazione straniera sotto. Vuol dire che c'è quella mia portante. Accidente. Ah, Lucy, no, aspetta, arrivo subito. Sì, sono qua. Basta. Luca. Luca, ci sei? Cambio! Qua in ascolto. Avanti, chi è? Io ti sto ascoltando bene. Questo non è Asmitter, questo apparecchio. Dovresti essere segnale 9 qua, per come si alza, ma è di quelli a tacchette nel digitale. Scappa, parla un attimo a vedere. Gli ho messo quel commutatore dai, va bene, la zitanca, Ghiciu. E K, là. E K. Ya. Ho capito. E c'è mia moglie, sta rompendo le balle. Che si mette a parlare quando parlano gli altri. Porta, sopporta. E sopporta. Finché non scoppio, già Gianni. Sopporto. Gianni. Con che? Cioè. Con che tira? Gianni. Adesso ti lascio che devo andare a comprare la pizzetta a mia figlia adottiva. Ciao. Sempre. Scappa. Sì, ma sarebbe meglio un'antenna normale, da, così imbatte di più. Non se ne mette, le mattine buoni, mamma mia. No! Le pure in macchina, così almeno ci troviamo quando là. Almeno ci troviamo se non è un apparato, c'ho questo di qua e basta. Va giù su Rughiccio. E chi quello è in macchina? Non c'è l'attacco dell'antenna? Sì, basta prenderla da campagna, l'antenna e c'ho la base già nella macchina, non è quello il problema. In campagna è l'antenna. Lugariello è entrato. Cara, la gamba. Ma che attacco devi comprare? Faglielo vedere a Tonino. Se passi alla GBC glielo fai vedere, lui ti dà quello suo proprio. L'antenna quando arriva va al ritiro, se li metto l'altra l'antenna e faccio di giù. Infatti. Parla tu un attimo. Almeno, grazie. E ti ho escluso poco fa col commutatore d'antenna. Cioè? Capito. No. Gli ho messo un commutatore d'antenna, no? Gli ho messo. Così quando voglio escludere l'antenna, la escludo. Ma Luca, cioè la escludi? Col commutatore puoi escludere l'antenna e non senti più nulla. Per il temporale l'ho fatto, quando ci sono temporali la tolgo l'antenna praticamente. Ah, ho capito. Gianni, dove sei? Dove sei? Ma dopo già, dove? Ah, sì, che ti ascolto, là. Ma se non vuoi portarti, lo guardi il mio. Sì, dai, un po' oscillante, 9, 7, 2, 3, allora così, sì, dai, non so come mi ascolti bene a me. Ho capito, e tu un po' oscillante, sì, dai, non so quanto io se ti ha accoppiato. Hai accoppiato Natalia? Stavo cercando roba al computer, un attimo di quel Rix. Sto proprio al quadrato, la cassetta che ci sono tutti. Sì, già un po' basso, sì. Che legge, ma col cane sei già. adesso mi sperto, va. Guarda a vedere come sta andando adesso, va. Santiago 5, sì, già, ma con il cane, sì. Ma non sono con il cane, sta andando a fare la spesa da Emmy. Praticamente mi sono portato il portatile, mi è venuto lo spirito, siccome si può mettere la spesa esterna, l'ho portato qua al quadrato in giro per vedere come andava l'antenna. Dai. Io ti ascolto, un po' basso, ma ti ascolto, non ci sono problemi. Non era l'antenna, Luca, era l'apparato che non riceveva più, era partito qualcosa. Ma che apparato? La 48? No, non la 48, l'altro che non riceveva nulla, la gente parlava e non la sentiva. La 48 andava bene. Ho capito. Allora, sai che c'è questo qua, ma spegnita la radio. L'attacco dell'antenna è perfetto, va benissimo. Ma c'è qua, lo spinotto, c'è scritto STK. Che cosa può essere? L'attacco elettrico quello lì, perché ce n'è uno per il mare e l'altro c'è scritto STK. Che cosa è quello? Aspetta un attimo già. Signore, se c'è qualcuno sul canale 10, cambia... Hola, canale 10, cambia... Canale 10, cambio. Oye Gianni, allora sto provando un'altra radio, poi ti mando la foto. Come sta andando il radio? Non ho capito. Buona e buona, non mi senti Flavio? Basso ti sento, ho detto come sta andando questa radio? Forte, bella forte. Bella forte, ma bipi c'è? Non ho capito. Sì Claudio, sì, guarda un po' se mi senti meglio adesso. Sì, ti ascolto. Ho detto c'è bip anche. Claudio, un bip grosso, eh. Ah, ho capito. Andava. Allora, così c'è il bip, hai detto. Invece così sicuramente non c'è, guarda. Oh, esatto. Ok, così non c'è bip. E così c'è il bip, perfetto. Va bene. C'è. Adesso c'è di nuovo. Ehi, vabbè, lascialo stare, dai. Ok. Venuto qua l'MD a farmi la spesa e adesso accendo il portatilino dove c'è sotto qualcuno. Poi basso il portatilino. Almeno. Ehi già. Cioè cos'è il problema? Che dovresti potenziare un po' lì, dai. Tra antenna, qualche baracchino che l'ha più fatto, così non è che dici granché. Sono interessante sentirti, dai. Lo so. Allora, vediamo un pochino. Luca, mi senti bene di radio? Sì, è perfetto. Meglio o peggio di quel del baracchino che uso normalmente? Ma come sono tibistici? Cazzo di non ne voglio bene anche se il radio. Questo è un cobra. Questo è un cobra. Prego. Va. Buongiorno a tutti, a me Massimiliano. Ciao Luca Riebbe. Ciao Massimiliano, buongiorno. Becca. Come mi occupi di radio e di segnale? Segnale radio. Aspetta che ha parlato Gianni. Cosa hai detto Massimiliano? Ogni radio. Questo è l'Expander 500 col Cobra, quello che ti ho fatto vedere stamattina. Ma c'è l'adattatore? Sì, c'è l'adattatore purtroppo, ma se va bene, che mi dite che va bene, le cambio la connessione, un filo da invertire, perché quando inserisco va importante. Ascolta, una cosa, Mickey Gendel, volume del microfono dove ce l'hai? Il volume del microfono è a 7. Tiralo appena più su. Ecco qua, così è a 8. E così è più bella che... Va bene. Fa forte, no? Minchia, sono in cuffia, mi fanno dei giochi. KK, c'è BIP. Sta a flusci, si Massimilia. E la soga a flusci? In tedeschi, sì, ma a me è importante. No, no, c'era il palo ascoltato, fa aperto, guarda. Ora, ora, uno, due, tre. No, no, c'era il palo ascolta sollevato, ecco perché. Ehi, ehi. E tutte queste cose, aspetta. Mi sono accorto, c'era un po' di vatti in più. Sì, comunque va bene Claudio. Piano. Sì, ti sta chiamando Gianni, non lo senti? A me? Sì, Gianni chi? Doppio rum in macchina, No, non lo sento, c'ho un casino di QRM, là, c'è un po' di propagazione. Ah, là, io ti sento benissimo, là. Lui già ti sente bene, dai. Allora, ho tirato un po' sulla il Mickey Gin, ma a Massimiliano così è troppo forte, cazzo aiuto. No, vabbè, dai, rimettilo come la prima, era giusto una prova. Ah, ecco, era giusto una prova, ma lo devo tenere così, se no ammazzo la mocca, no? Ascolta, c'è il bip inserito? Che cosa, Massimiliano? Ho detto, c'è il bip inserito? Il bip inserito c'è, sì, adesso lo tolgo. Adesso lo tolgo, va. Così, bene va. No, io lo puoi anche lasciare, è carino anche quello. Un'altra cosa, potenza minimo o massimo? Sì. No, minimo. 5 watt modulati quasi 30. KK, no, già ne dà di più, qua. Qua nel mio dive a quello segna. Se la stessa radio mi segna 3 watt e 60 modulati. Anisetta. Ehi, ehi, scusa, tieni scala. Tieni scala 20, sì, scala 50, 3 watt, 50, 60 modulati. Sei 9 quasi 20 qua. Prova a aumentare la potenza a vedere se cambia la radio qua. Allora, così sono in HI. Aspetta, che metto l'attenuatore, ecco qua. Così sono in HI 50. Sugar 120 watt modulati. Così ne dà, così ne dà. Bella radio anche così, eh. Quindi Massimiliano è la stessa di quella che c'hai tu, il 200 GTL. Sì, è uguale, bella. Stamattina è arrivata. Stamattina infatti mi ha dato la foto e ti ho detto cazzo. Ah, uguale lì, c'è uguale alla mia, non lo so, se non me la ricordo. Se è uguale alla tua, però dovrebbe essere questa, capito? Quindi non sta saturando la massima potenza? No, assolutamente no. Massimiliano, guarda a me, Sante. KK del Rogero. Gianni doppio rum, vieni avanti. Io sto qui per andare a farmi la spesa, ci vediamo dopo. Ehi, a positivo è KK Rogero, va bene. Da solo. Poi ti mando la foto di questa radio che ho preso, l'ho fatta già vedere anche a Roberto stamattina. È un bel veicolare massiccio, eh? La mossa Luca Riek, oggi parte. Non so fare neanche adesso, è stato il telefono che va. Ehi, Massimiliano, oggi parte. Chi è il break, avanti? Alfa 21 da questa parte. Ciao Riccardi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che Riccardi? Ma c'è una portante da Santiago 9, può essere? No. Poi propagazione, buh. Io ho questa propagazione a Santiago 9, buh. Ciao Riccardo, buongiorno. Ciao Luca e ciao a tutti gli altri, Massimiliano, Claudio e a tutti gli altri in frequenza che non ho sentito, sento solo voi. Beh, c'è anche Natalino, sai che è un po' Rix ancora, buh. Ehi, sì, dai, comunque se aumentano quella radio troppo forte, tirano più basso, normale, là. Lugaria, sto facendo delle prove, così va bene, ce l'ho a metà l'Expander 500, non va bene. Massimiliano voleva provare perché siccome lui c'è la stessa radio, ho detto se va bene meglio del Tanne più 3 l'Expander 500, ti do quello e lo usi con quella radio lì, capito? Provalo il Tanne a vedere, giusto una prova qua, se ce l'hai. Non c'è batteria c'è dentro? Aspetta a vedere che guardo se funziona. Se funziona bene, meglio di questo. Aspetta un attimino. Ciao Riccardi, aspetta un attimo. Ho detto Riccardi, oggi sta uscendo benissimo, senza innesche, senza niente. Ti ha messo a posto? No, non ho toccato niente. Non lo so, ho appena. appena acceso, ho attaccato la corrente a casa, ho messo acceso l'alimentatore e sto parlando. Ah, ok, ok, va bene, va bene. Quindi non ti sei deciso di portarteli dentro casa nel radio? Mi sto preparando la postazione, dopo è andato a comprare un paio di ciabatte perché non ho ciabatte da mettere dentro per alimentatori e altre cose varie, quindi mi devo comprare delle ciabatte. Ah, ok, ok, no. Abbiamo visto la macchina stamattina, là, di tuo padre. Quella blu, quella lunga, quella con le due antenne. Sì, sì, abbiamo visto parcheggiato lì. Massimiliano, questo è il tranne più 3. Allora, questo qua è più forte, ma c'è un'altra timbrica. È più forte? Di cosa? Di quella là? Allora, questo è il tranne più 3, però posso aumentare al limite così, guarda. La mia voce, così ce l'ho 1, 2 a 3, il tranne più 3 a 3. È forte, vero Luca, cosa dici tu? Mira, forte. Ma è più forte dell'altro, no? Prova, vai. Guarda a vedere, Lu, se è simile all'altra oppure quell'altra prevale. No, sono belle tutte e due forti, bella, sì. Cesso di erba. Io Massimiliano, perché allora ti spiego Luca, questo microfono, il tranne più 3, è di Massimiliano, siccome io ho la stessa radio sua, mi ha detto provalo per vedere, ti voglio sentire, cioè c'è un abisso Massimiliano da come esce con te a me, guarda, è solo un problema di voce, basta, tu sei fissato che il microfono va bene, guarda se va bene. Va bene, va bene. Te l'ho detto Massimiliano. Te l'ho detto, vedi, questa è una prova che adesso sei convinto. Il microfono non c'ha niente, perché questo microfono, se ti ricordi, l'avevo già usato io e ti ho detto è favoloso, va bene, non c'ha niente. E tu mi hai detto, ma come non esce come esce con te? Perché è solo questione di voce, e buh. No, volevo sentirli tutti e due per vedere che differenza avevano, tutto qua. Capito? Però quello là, diciamo che quello puoi regolare i toni, là qualcosina in più ce l'ha. Vabbè, ma come vedi io non ho bisogno di toni. Cosa devo fare, Massimiliano? Questo è un turner e funziona come il turner. E ti dico che ce l'ho a 3, lo posso mettere a 4, così è a 5, a livello di radio. No, lascia. Cioè te ne avvisi? Eccolo, così guarda, così a uno, e così è direttamente già 2,5, quasi 3. Cioè, rende di gonto, come ti devi sci uno? Ancora peggio di avà. No, così va bene, va. Sto uscendo alla grande. Capito? Stai uscendo alla grande. Ok? Riccardo, riprendi. Ok, sì, anche secondo me da questa parte sta uscendo benissimo adesso. Cosa hai detto, Riccardi? Stai uscendo benissimo. Grazie Riccardi, grazie. Ok, molto bene. No, queste sono delle prove che ogni tanto con Massimiliano facciamo, perché anche lui c'ha un po' di microfoni, delle radio diverse, e quindi ogni tanto le facciamo. Siccome abbiamo una radio simile, anzi uguale, allora io sto provando il suo microfono, ok, per vedere, per farglielo sentire. Tutto qua, Riccardi, capito? Però possiamo dire che va molto bene anche questo, ok? Avanti Luca. Va bene, tutto va bene. E me Massimiliano, i colpi a 45 non li hai dati? No, acceso ero direttamente qua, capito? Non so manco se c'è propagazione, Sì, un po' bassa ma già c'è. Sì, dopo glieli diamo due colpi. Va bene, ok, tutto rocci. E io come ti arrivo lì, Riccardi? Non guardo mai lo smitter, fammi un altro passaggio, scusa. Guarda, va bene, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 mi arrivi 9.30. 9.30? Va bene. 9.30 spaziato. Eia, manda bene vera. Quindi, Riccardi, Massimiliano arriva più forte di me. Fai un'altra prova anche tu. No, guarda a vedere, cioè Massimiliano arriva più forte di me, caspita, 9 più 30 è un ottimo segnale. No, tu arrivi più forte. Allora Massimiliano hai perso, te l'ho detto, ti batto e basta. Andava bene. E perché lui è più di 9.30? Anche per me. Ok. Giusto, non sei su Smith. Cosa? Deve essere giusto uno Smith. No, è precisissimo, sì. È solo un buffone di Gessa Radio. È precisa. Vabbè. Allora, tu conta. Giulio che arriva più forte di me da lui. Massimiliano arriva più forte di me. Praticamente tutti. A me passano tutti in chi? Uno Marco o Condo. Che non è giusto quello Smith, là, sicuramente. Magari adesso quando è lo lottara di nuovo, va. Allora lui a me mi arriva 9 più 20. Invece al contrario lui mi dà il segnale 9. Mi sa 9 e 5, boh. Guarda, lui sta dando sicuramente più watt di me e mi arriva, non arriva a 9.20, figurati. E io sto dando meno watt di lui, gli arrivo a 9.30, quindi qualcosa di anomalo c'è. Arrivare, io ho entrato, mi ha dato 9.40. Allora a me, prima 9.5, però 9.15. Gappa, ma lo lascio questo bip o lo tolgo? Lascialo, se lo vuoi lasciare, a me non mi disturba. Anche a me mi piace, almeno è diverso dagli altri. Va bene, perché che entra la radio? A manetta, giusto? Mi sembra che non l'ho controllato, adesso lo controllo con i piccetti. Ho detto il segnale di da te, come Massimilia? Sì, 9.20 passato. 9.20 passato, va bene. Ok, dai, da Luca sarò sul 3 sicuramente. Beh, tra il 3 e davanti al 3, sì, dai. Ho superato il più, dai, già va bene. K di Rogero. Sì, infatti già sono quelli. Ola. Il picchio è buono, no Massimiliano? Cavolo. Già va bene. Avanti Riccardino. Fatto un po' di bianco. Un po' di bianco ha fatto. Allora aspetta che mi sistemo qua. Riprendi con Luca, dai. Infatti c'è il mio Civas, è la direzione verso Porto Torres. Cosa Luca? Stamattina c'era Civas, direzione Porto Torres. Ah, così? Si butta me in radio, si butta me di fatti sotto, buro. Ah, così è? Così è, sì. Gappa. Va bene. Un secondo, Luca. Sì. Sono girato a 45, che sei la propagazione? 9.10, 9.20. La me più bassa. Si voleva darvi i golpi. Perché mi acchiappo le cuffie? Via. Cavagano e Cavarrogero. Ora. Claudio, ci sei? Eia. Due colpi a cuffia. Vai tranquillo, già sono qua, lo sto mettendo a posto. Dai, vai. Cosa, Ricca? Sono tornato, mi aveva chiamato Bobo per dirmi che aveva portato il TM1000 a Roberto. Ora. Va bene, aspetta un secondo, Riccardo, sto mettendo a posto qua. Un minuto, arrivo subito. Ora. Attenzione, binario 10, ascoltate l'isola da Sicilia, cambio. Lu, adesso ti mando una radio, mi dici se è uguale alla Superstar, guarda. Ciao. Poi ti dico quanto l'ho pagata. Positivo, Claudio Salviero, non ci stanno problemi, dai, una martedì a tutto il mondo, frate. Guarda, se è uguale alla Superstar, guarda. Non trovate mai un cazzo voi. Ma vai da. Sono Cobra. Sì, questo è il gemello di quello che c'è Massimiliano. Il 200 GTL di X. Questo c'ha 150 watt. Ok? Ma te lo posso vedere, P&P a strumento, 150 watt c'ha questa radio. Cosa non c'è più di nulla. Zicchendi, però c'è sempre questo però, che magari prendi una fottitura. Bisogna fortuna anche. Fottitura, questa è nuova, ti faccio vedere la busta, la scatola, il manuale, ti faccio vedere tutto, nuova, usata 6-7 volte, era di un radioamatore, sai che cosa lo usava? Questa sintonia continua, mi attento, frequenzimetro a sintonia continua, cioè non ha ghita un gosi di canali, questo parte da 1 fino a 30 MHz sempre dandoti la frequenza, te lo faccio vedere, lo usava solo per i 10 metri, Quanto? Quanto è un baracchino modificato? 350 euro. Cazzo, ti pare di poco. Ma è un baracchino, mica barò. E chi è una radio? Questa è una radio, capito? C'ha 150 watt regolabili. C'ha... È un mostro, è un baracchino serio. Perché io apparato non lo chiamo, per me è sempre un baracchino. Ma è un baracchino serio, però. Come faccio a comprare un Alan 48? Sto dicendo, un baracchino modificato, cazzo di... Come quello che hai preso tu a 300 di qua. Un Alan 48 a 350 euro. Secondo te compro io? Io compro una radio del genere, no? Non so. Quando vorrei c'è ormai 350 euro, sono un pacco di dia. A preferenza avrei preso io un bel 140, un 440. Più che 140, un 440. E io esamino il vostro, ci verrà giù tutte e tre. Io esamino il vostro. Volevo un baracchino serio, ecco qua un baracchino serio. Ma serio però, non un baracchino del cacchio. Questo è un baracchino serio. Gaba gaba. No, vabbè, chiuso il discorso. No, perché molta gente dice, ma qui, là... Ma cazzo qua, lì, là, basta cattare le cose, a punire la pila, a giocare, basta spendere quattrini, se uno li spende c'è cosa bella, se no va mondetta. Comunque il 3009 l'ho preso io, è abbastanza nuovo, poi lo proviamo, vediamo un po' cosa ne esce. Sento dice un miglio di cigarrati di vaginocchi, che è poco ma sicuro. Sì, ottimo baracchino, però questo è un altro pianeta, io sto parlando di questo radio a questi livelli. Quello è un baracchino che va bene. Questa è un'altra cosa, capito? Invece di avere il linearetto per fare, tira, molla, senza linearetto, va di tutto. C'ha delle cromature fantastiche, l'hai vista bene la foto? Diciamo che si vede molto bene. Se tu fai la foto tramite WhatsApp non esce bene. Aspetta, sì, vabbè, se la fai normale poi la invia e esce più carina, se vuoi già la vedo, dai. Aspetta, vedi, allora vediamo un po', è carina, dai, come baracchinetto, alla fine è un veicolare, sì. Cazzo veicolare, ma è più in mano dell'S9, è massiccio, mi sotto c'ha un dissipatore allucinante, c'ha tipo un lineare sotto la pancia. Mezzugai. Te la rifaccio bene, guarda. Cappa, la devi fare normale, perché se la mani tramite WhatsApp non esce bene, chiara, capito? Mi scuccia la pelota. Guarda, te l'ho mandata, guarda quanto è lucida, guarda quanto è bella, nuova. Certo, devi avere il culo, ma devi conoscere anche le persone. Io questo lo sapevo, che questo signore ci aveva questa radio solo per i 10 metri, e me la sono presa. Sì, ma cos'è sopra? Non so, un po' graffiata la cornice sopra. E dove? Sopra graffiata la cornice? Il cazzo va giù di PC? No, sarà il riflesso della luce, lucida, lucida. Poi sulla parte dello Smith, sulla sinistra, lo vedo un po' scoperchiato lì all'angolino. Posso cucicuio, un po' aperto rimane. Scoperchiato all'angolino. No, lui è la foto, perfetto. E cazzo, gioca ne intendi, no? Lui è perfetto, sai che lui è perfetto. Se lo vedo al vivo mi dici il contrario, guarda, lo sto lucidando le cromature, ma è perfetto. Perfetto, non c'ha nulla, è perfetto lui. Non vengo nulla. Va giù di piccitti, è bombato, no, è bombato, è così, è piatto, liscio. Prova a farla dall'alto. Come dall'alto? Dall'alto, non frontale, dall'alto. Aspetta. Avanti canale 10, buongiorno. Avanti lupo, ascolti Luca, nord Sardegna, avanti, buongiorno. Attento lupo, ascolti Luca, nord Sardegna, cambio. Ascolti Luca, nord Sardegna, prova a chiamarlo tu, Riccardino. Attento lupo, ascolti Radio Bulldozer, Gava. Cambio, l'amico di Brescia. cambio. Lupo, ascolti l'isola sarda, Lupo. Ascolti Alfa 21, qui Alfa 21, operatore Riccardo. Alfa 21, da dove moduli? QTH di Sassari. Kappa, qua dalla valle di Fiemme, Trentino Alto Adige. Kappa, piccolo modulatore con pochi watt. Potrei fare il voto a quello di Scimmia, va lì ben di là, non si fa foto. Ho un lume, non voglio il telefono tuyo. Ma è quella ciò, che tu vuoi vedere i graffi, non ne ha graffi. Che la vista Massimiliano, Massimiliano, non lo fai quella radio. Sassari. Ehi, allora lo fa. Lupo, mi dici il tuo QTH? Fatto la Valle degli Orti, avanti, amico, se ascolti Sassari. K, non sento più niente, K. Sì, allora K, ascolti lo Sparviero qua, la torre di controllo del nord Sardegna, cambio. Ah, Sparviero, K, qui Lupo dalla Valle di Fiemme. Ciao Lupo, Lupo Vittisimania, ascolti lo Sparviero qua, 659, cambio. Troppo bailame, non capisco niente, troppo bailame. La schirricca. Vitamine e troppo bailame. Ma tu c'è bailame, qua non ce n'è bailame, qua c'è il coronavirus che si sta mangiando i lupi. E si mangia i gucciucci, ripeti Massimiliano. E ti stava chiamando. Già l'ho sentito, ma non mi... ti ha detto che c'è bailame, io non ne ho bailame. Luca, ma Lupo, Lupo, mi ascolti? No, non sono Sparviero io non volo, io spingo e basta. Siamo nel nord Sardegna, in quelle di Sassari, capito? Bulldozer che ti saluta. Siamo al casino, saltiamo nuovo, cazzo. Infatti io l'ascolto molto forte, vabbè. Non ce ne frega un cacchio, dai, va bene così. Sì, stavo dando una pulitina alle cromature. Cazzo, luci, luci. Ha detto Luca che vedi graffi, mi pare. No, io non vedo niente. Non vedo assolutamente niente, è perfetto, perfetto, perfetto. No, non ce l'è graffi, io l'ho visto, non ce l'è graffi. Quelle sono le foto, dai, come vai a aprire le foto, sembra che ci siano graffi, ma graffi non ci sono. Oh. No! Massimiliano, ma quindi praticamente, vabbè, quello c'è sotto, il dissipatore, va bene così, dai, ha una potenza e l'altra potenza. Claro, quella radio monta nei finali del 440. Fatti lo gotto, va bene, va bene. Il prezzo suo 3,50, no? No, di più, 4. No, quindi ho fatto un affare. Se ne hai preso a 3,50 ho fatto un affare, se no ho usato così lo trovi a 400. Ah, una 48, 350 euro, cazzo. A mai da cosa è? Un altro mondo. Va bene che va bene, dai, non ci stanno problemi, la cosa è bella. La Sardegna scalda, scalda le candele. Pranzo provo quello a provento, ancora non l'ho provato. Io so che metto a posto qua, un attimino. Gala, va Riccardì. Seia, se oggi c'è propagazione, ma quello ho capito, se ho capito bene, era in barra mobile. Sì, in barra mobile, adesso bene ti arrivo, meglio mi ascolti Ricca. Sì, molto meglio. Adesso i 9.30 li supero. Eia, già li superi i 9.30. E allora già va bene, allora vai Lucaria. Positivo, dai, attenzione, binario 10, se ascoltate l'isola sarda, gamba gamba. Spero tu capo di... ma come se ne scende? Aspetta, noi per metterci la portante segnale 7. Ti vengono i fusi minati, che? Cosa ho detto? Cosa? Cos'è che hai detto? Il vecchio che poi aspetta a noi, che non c'è nessuno, no, quando non c'è nessuno non entra a giocarsi con la portante. Aspetta a noi un segnale 7, che voi siete 9.10, 9.20, 9.30, cosa pensate in chi vi ha fatto? Ti vengono allumato. E dille a Ciamba l'antenna, vedi che arrivi più forte. Chi ne ha due d'antenne? C'è un dipolo e una verticale. Così non la metti adesso, non la metti la portante col dipolo, mettila col dipolo. Così dico chi sì, mettila. Basta segnalarlo, Cla, visto che conosci chi li devo avere. Ma infatti, sto che attento che mentre entra tu esci. Non ve lo dico più, va. Attento che come si entra tu esci in fretta, mi. Non giubbe assai con me, perché non funziona più come prima, Cos'è, Claudio? Cos'è? Ma Giulietto, sta attento che come è entrato esce, ma non in punta di piedi, no. Perché è entrato in punta di piedi, ma esce molto velocemente dalla 27, capito? Quindi faccia la brava con questi giochi di Carruzzo, che non siamo più negli anni 40. Ma perché di nuovo quello lisce? E allora, senti, va due antenne, no? Con una si gioca e con l'altra va vita. Ah, sì, vabbè, ma insomma, finché non sul fare nove non andrò a lungo, là. Allora, io pago la vestita della mezza, non meglio. Ciao a tutti. Allora, il discorso è questo, Cla. Per stare qua bisogna pagare anche la tassa. Come la paghiamo tutti, no? E lo ci ha detto Vannino, io non si può comprare un baracchino, ciao Giulio. Mettere la portante, intanto paga la tassa, capito? Vabbè, forse sono le regole che fa lui. Vabbè, ascolta, io ho propagazione a 7, quindi qui manco ci arriva, figurati. A me, manco me ne sono accorto io, se ne è accorto Luca. Io manco me ne avviso, quindi non me ne ha fotti nuda. Avanti Giulio. Ok, ciao qua. Ciao Massimiliano e Luca. E Riccardo. Vabbè. Dai che voglio qua. Non gli visti metto su io, dai che voglio fare, che non può stare a pista, non può stare. Anzi, che non può stare immaginato come te la gara immaginata. Non si sa mai, è meglio. A chi ha fatto a pista non si sa mai, che può essere qualche cosa, qualche virus con base crescitore. Invece si è immaginato la cosa più sicura. Figurati, sì, me la piglio baena, io che non arrivi, si può immaginare, vabbè dai, ma ci vediamo. Sì, ciao Giulio, dai, tanto ti saluto, buongiorno, ben entrato. Giusto per la cosa, Riccardo, a te questa portante, quanto ti arriva? Cosa mi arriva? Basta, è sotto il 9, un 7, 8. Massimiliano, ti arriva uguale, così è Lucario. Cosa? A te più o meno ti arriva uguale questa portante, 7, 8 anche a te. Via. Hai sicuro di Goipi a 45 mi hanno risposto, so che c'è stato un casino. No, non mi piace, quando è così la propagazione è brutta, capito? Non, cioè, mi dice QRM a 9 di propagazione, però ho dato due colpi anch'io, ho parlato anch'io, però non mi piace quando è così. Positivo è caparrocchio. Ti parla uno sopra l'altro, non riesco a capire che ti sta rispondendo. Adesso mi ha appena risposto uno, poi l'hanno coperto. Segnale 9 fisso, Uno che parla, vabbè, mica lo sappiamo noi. Magari tra di loro riescono a modulare, però quando arrivano qua, il discorso è quello. KK. Andava Giulio Dollaro. Ciao Luca Nieri. va bene, dai. Vorrebbe un vecchio comunque. Va bene lo stesso. Vuol dire parliamo tra di lui. Ecco i fuori lasciamo contro loro. Tanto quando è così la propagazione non è che sia delle migliori, oltretutto. È solo un rumore, buco. Rumore. Avanti qua. Riprendete che sto mettendo a posto qua, riprendi Massimo. Comunque ho sentito in propagazione questo qua che si chiamava come, cioè, questo nominativo, io lo uso come nickname, no, diciamo, Lugariello, l'unico uso qui io, che non vedo nessuno. Come nominativo cosa c'hai, Luca? Non ne so, come malinconico, soldatino. Vai, abusivo. Capo di pugnetta. Ma poi non l'ho mai usato, come Luca sono sempre entrato, dai. Come Luca, e poi Claudio mi ha battezzato con te malincomio. Sì, capo di pugnetta, capo di pugnetta Massimiliano. Sei malincomio, siamo così. Ciao Natali, buongiorno a te. No, capo di pugnetta Massimiliano, noi. Ah, tu sei capo di pugnetta 2. Più 4. Anzi, tu sei il capo, vero Massimiliano? Mia mamma ne scende. Sì, è il capo. Sì, dove dico io? Niente, buon acquisto, Claudio. Io non ho sei usato a dollaro, comunque ciao Giulio, buongiorno. Ciao Riccardo. E allora, oggi collegamenti come fai? Non ho capito, oggi? Collegamenti come fai oggi? Ho capito bene, allenamenti. Collegamenti. Ah, non avevo capisco, scusa, perché ho collegato la cassa ed è un po' lontana. Collegamenti, boh, adesso sono sul 10, dopo forse più tardi, adesso sono sul 10, volevo parlare un po' qui. Ma ascolta, quando c'è la propagazione bisogna approfittarne, perché la propagazione è un po' maledetta, nel senso che magari giri canale si è chiusa, capito? Ok, allora mi faccio un attimo un giro, se poi c'è la propagazione mi vado anche a ascoltare un po' altre frequenze, vado ad ascoltare, vabbè, faccio un po' di collegamenti, se no vado in altre frequenze, ciao, a dopo. Ciao. Riccardino, se puoi anche rimanere qua, problemi non ce ne sono, te lo puoi fare anche dopo se vuoi. Ma la propagazione è un po' così, capito? A volte c'è, a volte non c'è. Se vuoi rimanere non ci sono problemi, Riccardino. Ma ok, va, riprendi io qua. Ehi, ehi, rimani qua, Ricca, non c'è problema. Se poi puoi andare a farti due collegamenti, vai, fateli, Già siamo qua, Ricca, capito? Giulio, bene, mi stai ascoltando? Sì, sì, è abbastanza bene. Non c'è problema. Ok, allora faccio due collegamenti e vedo se c'è qualcuno. Va bene, no, sto usando un altro baracchino, già vedi che c'è il bip, dai. Ok, mi interessava la radio, sto usando sempre l'Expander 500 però con un'altra radio. Va bene, avanti Massimiliano. Sì, scendo un secondino e mi abbeffero, veloce. E poi riprendo, vai, guarda. Eia, cappa. Cava, aspetta, passiamo un po' qua, sono troppo alta, là. E niente, vabbè, comunque, cosa vuoi fare? La gente è fuori di gabbo. Non so che gusto ci prenda di disturbare. E poi non è a livelli bassi, mi. No, qua, arriva la picchiriola. Ma se voi non me lo dite, se... capito, siccome c'ha due antenne, se usa l'altra antenna arriva a 9 più 10, ma con l'altra antenna per disturbare arriva a Santiago 7 da me, da voi magari arriva più forte, capito, perché è nella zona vostra. Ma perché torna disturbando stanno? Natali, purtroppo sì. Sono cocomani. Allora, perché cocomani non possono essere. Come sono sceso di radio? Bene. Normale, no. Perché sto usando il microfonino suo. No, già va bene. Aspetta che io abbasso la potenza in questa radio. Già va bene, dai. Avanti, Giulio, riprendi. Ok, riprendo io. Sì, già si sente lo stesso, Natalì, il microfono. Intanto buongiorno. Anche se è più basso di modulazione, però già si capisce, non è un problema. Riccardo, allora tu hai la passione di trasmettere con quelli dell'Italia, con quelli di fuori? Si vede che è andata qua sul giro, sta cercando propagazione Riccardo. E vabbè, ha le prime armi e dunque anche lui ha necessità di sfogarsi. Poverino, se deve fare direx, lasciamogli rifare, dai, già va bene. Ehi, Natali, ogni tanto c'è il portantista, dai, non fa niente. Ehi, qua, se viene già vi ascolto lo stesso, non c'è problema. Penso proprio di sì. Volevo solo vedo a tappare a voi. Va bene. Avanti, Lugarie. Lugarie. Scommetto che anche Luca è andato alla ricerca di DX. Sicuramente così. Allora, dalla campagna visto se vuoi tappare, Claudio. Ma devi venire un bel azzata. Devi mangiare un bel pane a cacio ancora.